prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Avevo 12 anni, ero in Egitto assieme a mia madre, ho fatto un viaggio con lei in Egitto e mi ricordo al mattino molto presto, dopo essere partiti alle 3 del mattino da Assuan raggiungendo in Pullman il Tempio di Abu Simbel, mentre eravamo di fronte alla facciata di questo tempio con i colossi di Ramses II davanti, in cui i raggi solari entrano in determinati giorni, vanno ad illuminare le statue che si trovano, diciamo, nella parte più sacra del tempio, lo potremmo definire la Sancta Sanctorum, mi impressionò a tal punto che in quel momento decisi di diventare egittologo. Questa è la prima volta di Cristian Greco, neppure quarantenne, alla guida del Museo Egizio di Torino, un museo ristrutturato, reso immenso e accogliente proprio da Greco, dalla sua competenza e dalla sua infinita passione. Iniziamo allora a capire chi è questo giovane intellettuale e qual è stata la sua prima volta. In realtà mi sono iscritto alle tre classiche a Pavia e dopo il terzo anno sono andato in Olanda all'inizio per un percorso Erasmus che doveva durare 7 mesi e poi ci sono rimasto 17 anni. Perché ho concluso poi il mio corso di studio a Pavia, mi sono laureato il 2 dicembre del 99, poi ho intrapreso subito nel 99 un secondo corso di laurea in egittologia a Leiden, dove ho conseguito la laurea per poi proseguire con un dottorato di ricerca a Pisa, che è il dottorato che ho portato avanti a Pisa, sebbene continuassi a rimanere a vivere in Olanda, per cui un curriculum che mi ha portato fra Olanda e Italia per poi proseguire anche in Egitto, dove ho lavorato dal 2006 per l'Oriental Institute di Chicago, gli headquarters in Egitto, perché l'Oriental Institute ha dal partire dagli anni 20 quello che loro chiamano l'Epigraphic Survey, che è finalizzato alla documentazione dei templi dell'Egitto, quindi diciamo una formazione internazionale. Però da quello che ho capito è iniziata un po' così, non si sapeva quanto sarebbe durata, insomma. All'inizio sarebbe dovuto durare poco, a dire il vero, è iniziato tutto grazie alla mia professoressa di storia del Vicino Oriente antico, ed è iniziato perché avevo chiesto una tesi in storia del Vicino Oriente e la professoressa mi suggerì di andare qualche mese in Olanda per approfondire le tematiche orientali, e quel qualche mese poi si è trasformato in 17 anni grazie alle opportunità che mi sono state date, sia di scavo, sia di studio, sia di impiego. Ecco, perché questa è un'altra questione molto aperta, che è relativa alle possibilità, no, che lei ha avuto poi andando in Olanda. Ecco, volevo chiederle quante possibilità avrebbe avuto rimanendo in Italia, se se l'è mai fatto questo discorso. No, questo discorso non me lo sono mai fatto. Posso dire che le opportunità che ho avuto in Olanda sono state davvero molteplici. Guardi, io arrivai, avevo 21 anni, dopo 7 mesi che ero lì mi fu chiesto se volevo andare a scavare in Siria per 7 mesi, al ritorno dallo scavo mi fu chiesto se volevo pubblicare tutto il materiale metallico che era stato trovato in questo sito Tel Sabi Abiad, purtroppo, che si trova ora in una zona molto difficile della Siria, nella valle del Balikh, poco più a nord di Raqqa, dove ora sappiamo c'è purtroppo questa capitale del califfato. Quindi sa se sono state toccate anche quelle sedi? Sì, purtroppo sappiamo che addirittura il direttore del museo archeologico di Raqqa, Noras, che conosco molto bene, con il quale per anni ho lavorato, purtroppo si trova adesso in un campo profughi e ha dovuto lasciare la città, il museo per cui lavorava. Sappiamo che i siti sono stati molto danneggiati, sappiamo che il sito Tel Sabi Abiad, dove lavoravamo, è pure stato molto toccato e danneggiato, per cui è davvero tristissimo vedere che un paese meraviglioso, abitato da gente magnifica, con una profonda cultura, senso dell'eleganza, che parla un arabo meraviglioso, in questo momento stia vivendo questa immane tragedia che peraltro vediamo tutti ogni giorno nelle pagine di cronaca. E comunque la possibilità di andare in SIA significò per me una possibilità di formazione molto importante, di partecipazione a un progetto scientifico di grande valore che poi mi ha permesso di scrivere la tesi, di continuare a lavorare e poi decisi di rimanere in Olanda riscrivendomi ad egittologia, perché in Olanda avevo la possibilità di studiare per 5 anni solo egittologia, facendo 35 esami di cui 20 di lingua, quindi approfondendo la cronologia, l'intera cronologia dell'antico Egitto e le varie fasi linguistiche. Al contempo mi dava anche la possibilità di mantenermi all'inizio facendo dei lavori non legati alla mia formazione, perché sono partito facendo le pulizie, poi sono diventato guardiano di notte in un hotel vicino a Leiden, però dopo 3 anni che ero lì mi sono messo ad insegnare lettere classiche nelle scuole superiori. Avevo il mio diploma di lettere classiche in Italia, ho conseguito l'abilitazione all'insegnamento in una scuola postdottorale olandese e ho cominciato a insegnare latino e greco, quindi è stato la condizio sine qua non per potermi mantenere. La completa autonomia scolastica che vi è in Olanda, in cui i presidi ogni anno bandiscono i posti che hanno a disposizione facendo degli annunci sul giornale e poi fanno proprio delle job interview come si farebbe in qualsiasi posto di lavoro, e la dinamica che vi è in questo mi permetteva, essendo laureato in lettere classiche, di avere un lavoro assicurato, quindi questo è stato pure un motivo di permanenza in Olanda. I miei genitori mi hanno sempre aiutato e senza i miei genitori non sarei qui dove sono io, perché i miei genitori mi hanno permesso di studiare al Collegio Cristieri a Pavia, di conseguire la laurea, e mi hanno sempre aiutato negli anni successivi. È stato un senso a un certo punto di volontà, di autosufficienza personale che ho raggiunto dopo alcuni anni, perché con i primi lavori che facevo, se non ci fosse stato mio padre ad aiutarmi, non ce l'avrei certo fatta. C'è una volontà, ma guardi, è una volontà che è derivata forse, questa è una formazione che molto mi ha dato l'Olanda, mi fa un po' specie essere adesso tornato in Italia, in cui molto spesso si chiede quale sia il cognome, quale sia il background eccetera, perché nella mentalità calvinista olandese invece questo conta davvero poco, e pur appartenendo a famiglie ricchissime, in genere gli olandesi si arrangiano sempre da soli perché vogliono fare un percorso di crescita personale. Questo è molto nella mentalità calvinista che un po' mi hanno inculcato gli olandesi. Qual è la cosa che la appassiona di più del suo lavoro in questo momento come direttore del Museo Egizio di Torino? Quello che mi continua ad appassionare di più è la cultura materiale che conserviamo qui in museo, i magnifici reperti che abbiamo, e devo dire sono quelli che mi danno la forza ad impegnarmi con tutte le mie forze per gestire questo museo, e mi danno anche la spinta e l'entusiasmo ogni giorno. Quando vi è una giornata difficile non evito di andare a casa senza passare prima dalle sale e dare uno sguardo ai magnifici reperti che abbiamo conservati. Mi rendo conto di avere davvero il lavoro più bello del mondo. Avere la responsabilità di prendersi cura di questa collezione è una grande sfida, ma è anche un grandissimo onore, di questo me ne rendo conto quotidianamente. Ecco, e questo credo che sia stato anche riconosciuto da chi ha cominciato a frequentare il museo. In 5 mesi sono incrementati gli ingressi del 40%, mi sembra sì, di aver letto. Si parla di 500.000 di visitatori in 5 mesi. Abbiamo raggiunto il 500.000 di visitatori in poco più di 5 mesi, dal 1 aprile al 9 settembre. Abbiamo premiato il 500.000esimo visitatore, che il caso voluto fosse un ragazzino, e mi ha fatto davvero molto piacere, un bambino di 9 anni che tornava in museo per la quinta volta e che è assolutamente appassionato d'Egitto, un bambino di quarta che andrà in quarta elementare, che legge Plutarco e che ha già prodotto un video sugli dei egizi, e che tornava qui per fare dei filmati su dei vasi Bes, perché stava facendo appunto questa ricerca sulle divinità egizie, per cui è molto bello. Lei ci si è ritrovato, si è visto un po' ragazzino? Sì, Sì, mi sono visto e ho visto nei suoi occhi questa grande passione per la cultura e mi sono ricordato che è ciò che noi non dobbiamo mai dimenticare. Io ogni giorno me lo ripeto, sì, questo è un lavoro anche molto impegnativo, però è anche una grande passione. Dico sempre di essere davvero fortunato ad aver fatto del mio hobby la mia professione e siamo davvero fortunati di essere circondati da tanta e tale bellezza. Ci fermiamo qualche istante per tornare in compagnia di Christian Greco e del Museo Egizio di Torino. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Sechi, Salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori, Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. La prima volta. I want to ride my bicycle. Quella di oggi è la prima volta di Christian Greco, egittologo, una formazione internazionale e a sorpresa l'incarico di dirigere il Museo Egizio di Torino. Metaforicamente una bicicletta comoda, ma Greco decide di pedalare fortissimo e dare forma al suo sogno, lanciando verso il successo il museo e tutte le persone che vi lavorano. E i risultati non tardano ad arrivare. È lontano il tempo in cui Greco, ragazzino, sognava di diventare un egittologo. Oggi la giornata è lunga, ma Greco non smette di godere della bellezza che lo circonda. Avevo 12 anni, ero in Egitto assieme a mia madre, ho fatto un viaggio con lei in Egitto e mi ricordo al mattino molto presto, dopo essere partiti alle 3 del mattino da Aswan raggiungendo in Pullman il Tempio di Abu Simbel, mentre eravamo di fronte alla facciata di questo tempio che, sebbene sia stato spostato durante la campagna UNESCO per mettere in sicurezza i tempi della Nubia e quindi si trova in un paesaggio, in un landscape profondamente modificato rispetto a dove era originariamente, questo tempio con i colossi di Ramses II davanti, in cui i raggi solari entrano in determinati giorni, vanno ad illuminare le statue che si trovano, diciamo, nella parte più sacra del tempio, lo potremmo definire il Sancta Santorum, mi impressionò a tal punto che io in quel momento decisi di diventare egittologo. E fu poi un percorso sostenuto con letture, viaggi? Certo, la lettura fu un altro elemento che subito mi colpì in questo mio desiderio e passione per l'antico. Frequentando la prima media mi ricordo che il libro di saggistica di quell'anno fu La scoperta di Troia di Schliemann e quindi l'archeologia, la passione per l'antichità mi colpì in toto. Poi, sebbene l'attrazione per l'Egitto continuava, devo dire che nel percorso del liceo anche l'antichità greca mi appassionò moltissimo e devo dire che soprattutto la letteratura greca rimane la mia seconda grande passione. Il pensiero greco in generale, anche la speculazione filosofica greca mi interessa molto e quindi questo l'ho coltivato poi negli anni del ginnasio e del liceo, continuando poi nel percorso universitario, ed è una passione che permane tuttora. Sì. Anche se poi crescendo ho scoperto che oltre all'interesse intrinseco, il valore che comunque per me hanno queste discipline, ma penso che fosse lo stesso interesse proverei se fossi un ricercatore di microbiologia anziché di fisica, è comunque una ricerca di quello che in greco si dice la letheia, la verità, del significato forse del nostro essere, e quindi è comunque un modo per conoscere se stessi. Quindi attraverso l'antico Egitto comunque cerco, come tutti noi cerchiamo, di dare delle risposte alle domande fondamentali sull'esistenza che qualsiasi uomo si pone. Bellissimo anche questo. Le volevo chiedere anche una cosa che mi ha sorpreso positivamente è l'introduzione di queste audioguide anche in arabo. Sì. Intanto volevo la conferma del fatto che fosse il Museo Egizio il primo a farlo in Europa. Guardi, su questo visto, penso di sì, in collezioni permanenti, non glielo posso garantire, non vorrei essere smentito immediatamente, non lo so, nella collezione permanente, a mia memoria, delle principali collezioni permanenti in Europa, ovvero il British Museum, il Louvre, il Neues, l'Eden, a cui ho pure lavorato, Monaco, Vienna, non ho visto testi in arabo, però ecco, parlo a memoria, diciamo. L'idea a noi è venuta ed è stata soprattutto sostenuta da Paola Matossi Lorsa, che è la responsabile comunicazione e marketing, che ha avuto un'idea molto intelligente, che si ricollega a quanto io sto molto cercando di portare in questo museo, ovvero di connettere il museo al tessuto sociale in cui è inserito. E la città di Torino è una città in profondo cambiamento, dove vi è un grande numero di immigrati, e il messaggio profondo che vogliamo dare è che questa cultura, che l'Italia ha l'onore e l'onere di custodire, appartiene in primis a quelle popolazioni che provengono dalla magnifica terra d'Egitto e forse in senso lato dal Nord Africa, e quindi a loro in primis ci rivolgiamo. Vorremmo che si riconoscessero e si sentissero a casa in questo posto, e quindi era doveroso che una delle collezioni più importanti al mondo, in segno di rispetto e di profonda unione con il paese da cui questi oggetti provengono, ponesse i testi di Sara in arabo. E ha già avuto dei riscontri in questo senso? Sì, sono dei riscontri un po' empirici, non le posso dare dei dati ufficiali che ancora non abbiamo, perché vogliamo far partire un monitoraggio più accurato, però le posso già dire che in sala abbiamo notato un incremento del numero di nordafricani che vi sono presenti, non solo. Il riscontro lo stiamo molto avendo con i contatti che si stanno ricomponendo con l'Egitto. L'Egitto che comincia a guardarci come un punto di riferimento, Khaled El Anani, il direttore del National Museum of Civilization, che ci chiede di mandarci dei fellows egiziani qui da noi per un periodo di formazione, il ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e nonché il primo ministro egiziano, che sono venuti in visita nel nostro museo, e quindi c'è una grande attenzione da parte dell'Egitto, che è una delle cose che mi riempie davvero di grande gioia e di speranza per il futuro. Senta, un'ultima domanda a chiusura di questa intervista. È vero che quando ha saputo che era stato nominato direttore del Museo Egizio non ha mangiato per un giorno intero, cioè si è come fermato? No, il tempo si è fermato nel senso che sono stato soddisfatto di telefonate, di interviste, telefonate di congratulazioni. Devo dire che da quel giorno la mia vita è profondamente cambiata, molto di più di io quanto mai avrei potuto immaginare. Ho partecipato a questo concorso non pensando assolutamente di vincerlo, e pensando semplicemente di volermi fare conoscere e di dimostrare che questa era la mia ambizione, a cui speravo di giungere forse fra 10 o 20 anni, quindi mai avrei pensato a 38 anni di poter diventare direttore del Museo Egizio di Torino. E da quel momento in poi quella giornata fu intensissima di telefonate, di giornalisti che mi cercavano, di amici e colleghi internazionali che mi scrivevano, mi chiamavano per farmi le congratulazioni. E da quel momento in poi si è tutto moltiplicato al cubo. Il numero di mail che ricevo giornalmente, che sono più di 600, il numero di messaggi, il fatto quindi di essere, mio malgrado, non era certo una cosa che io ricercavo, di essere diventato diciamo un personaggio pubblico e di aver perso molto della sfera più privata che uno ha, insomma, delle sue, e quindi i contatti, le persone che le persone che mi cercano sono diventate molto di più, il che è anche, devo dire, anche stancante, a volte mi passi il termine, sembra un po' di essere un frullatore in cui non si ha bene in mano le redini della propria vita, e cosa comunque che accetto di buon grado, perché mi rendo conto di dovermi porre al servizio di questa collezione. Ogni volta infatti dico: questa collezione se la merita, se c'è una telefonata in più, un contatto in più, che poi può giovare al magnifico museo che ho l'onore di dirigere, ed è bene che sia così. Però sono diventato molto di più il direttore, e gli spazi che invece ha Christian Greco sono forse diventati più limitati rispetto a quelli di un tempo. Anche questa settimana il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi auguro buona serata e buon inizio di settimana. E poi vi invito a venire a trovarci sulla nostra pagina Facebook Radio24/La Prima Volta. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli. In my rearview mirror, the sun's going down. Sinking behind bridges in the road. I think of all the good things that we have left undone, and I suffer premonitions, confirm suspicions of the Holocaust to come. Rusty wire that holds the cord that keeps the anger in. Gives way and suddenly it's day again. The sun is in the east, even though the day is done. Two suns in the sunset.